Di colore arancione, il motore un leone, una 500 a pezzi si accendeva con il sole, da Bolzano al Vesuvio, con un pieno sempre a metà. Il suo viaggio verso il sud era pura libertà. Del nord era stufo, dei razzisti si era stufato. Lui cercava un'altra terra dove il tutto e anche il poco. Emigrava verso il sud, lui chiamava le montagne. Emigrava senza ma, coi pantaloni e le mutande. Vieni uomo, vieni, che il sud è un altro mondo. Non dar retta a quella gente che ci sputa addosso il fango. La mafia è dappertutto e anche noi la combattiamo. Vieni uomo, vieni a coltivare il nostro fieno. Arrivò in un paese dove nascono le rose. Arrivò e lui straniero fu accolto come un sovrano. A volte basta poco per sentirsi a proprio agio. Ed in questo tutto il sud ha un dono, ha un pregio. Quel poco che hanno te lo danno con amore. Quel poco che ti basta per riscaldarti il cuore. Lo presero per braccio come si abbraccia un proprio figlio. Il sud è tanto ricco di profumi di cristallo. Vieni uomo, vieni, che il sud è un altro mondo. Non dar retta a quella gente che ci sputa addosso il fango. La mafia è dappertutto e anche noi la combattiamo. Vieni uomo, vieni a coltivare il nostro fieno. Piantò in un giardino i semi della sua terra e ridevano i bambini e nacque una stella. Tu quando sarai grande resta nella tua terra, che il cielo ti protegga, te e la tua famiglia, che al nord non c'è nulla di ciò di cui hai bisogno. Non saranno quattro soldi a cambiare il tuo mondo. Guarda quante stelle ha questo cielo, guarda quante spighe ha questo grano. Vieni uomo, vieni, che il sud è un altro mondo. Non dar retta a quella gente che ci sputa addosso il fango. La mafia è dappertutto e anche noi la combattiamo. Vieni uomo, vieni a coltivare il nostro fieno. Vieni uomo, vieni, che il sud è un altro mondo. Non dar retta a quella gente che ci sputa addosso il fango. La mafia è dappertutto e anche noi la combattiamo. Vieni uomo, vieni a coltivare il nostro fieno.